scaldare qualche palmo, come dimentico, come un po' più calduccio. Ogni tanto sopra. Ma tu cai anche? Si può fare. Abbiamo qualche bottiglione. Perché c'è un po' questa. Che è una bella che stanno bene insieme. Dove sei, salve? Via, e a passeggio. Vai, devi mi male lo Smith, vattene a sto casa. Hai vista l'antenna? Sono passato sotto, vicino. Tutta nord-ovest l'antenna. La Brescia va fottito, Il vento, Adesso non le senti ora. Allora, se te ne vai da vicino a casa di Luca, è meglio per te, perché io non garantisco. Io ho buttato altri apparati. Grazie a lui, io non pago niente. Ogni radio squillante. Sì, vai, sapete, ma tra l'altro due macchine ho bruciato, mi fate, c'è un attacco. A poter nuovo solo ora. Sì, vai, dimmi, ha staccato già il ferro, mi siete bruciato, va. Sì, non si è del mondo, sta capitando. E tu ne sono lì, guarda, perché battuta la regia. Originale, Buongiorno. Tu Maria, come lo stai ascoltando? Bene, mi auguro che il movimento possa crearsi in sala così via davvero a 9:10. Cioè sta cambiando è un movimento, non lo so se mi ascolta lui. Se ti ascolto, forse è chiaro. Che vuol dire chiaro? Ci diventano carabinieri. Ha succato gli video. ti mi sto allontanando. Sono multiindustria, eh? Questa, lo fai il risultato. Ma poi lo stavo dicendo, non ti crede, e li ho brutti. Guarda, se ti metti sotto, te l'ho detto. Mi ricordo 7-8 anni fa, era venuto Antonio Revetti a prendermi con la macchina. E mi ha detto prima dell'edicola, aiuto fare. E nel frattempo lui si è avvicinato troppo, e lui ha schiacciato il microfono, mi ricordavo c'era un amplificatore scritto, e ho detto, sto scendendo. Scendo giù, l'ha visto bucato il gioco, ma cazzo del bene. Mi si è trovato il rubacchino, ma ha detto, sto scendendo. E lo ha sentito. Ma l'ha tolto, poi un fiato di bruciato, già un tantone mio. Ma Cavolo di lusso, benissimo. Proprio male, poi ci fanno un cambio della virgola, lo erano prima. Come c'è la ramata va a tubo. Così. Ciao Claudio, comunque Rick, poi quando te va andando, buonanotte, buon 144. Sentiamo. Non ti arrabbia. Ora ci siamo organizzati, mi ci puoi fare un video. Vediamo un po' se riusciamo a trovare la nostra qua. A me no, non lo fa più. Ma te lo fa, non ci chiede perdono. Oh, boh. O lui che mi trova una sentura a capo e via. Io non vedo l'antenna. Dai, buon proseguo, Claudio. Ci sentiamo prossimamente. Oh, ragazzi, io non so fin quando ci sentiremo, perché ora incomincio a portare una serie di curve. Ma qua sta arrivando ancora bene, non c'è problema. Quando ti sentiamo vuol dire che non ti sentiamo più, cicca. Comunque non sta arrivando come, non come prima, ma ti sentiamo. Questo anche Adriano, sicuramente. Sì, ma non è quello che... non è la soltanto che ricordo, ma parecchio che gioca, eh. Allora non sa giocare, ne ho visto, è quello. Adria. Ma questo è quello che non sta a fare in questo momento, che è subito a noi. E poi ha messo. È tutta un'altra cosa domani, che è quello che è stato con una portante, che c'è una portante fatto per problema della fatica. Ma chi lo sta usando, salve? Come si chiama? non me lo ricordo, lo faccio l'Infex. Aspetta che lo trovo il gol subito. 340S. Allora, aspetta, sto illuminando la spazio. Allora, ci siamo, lo scritto, vedete? Infex. Allora. FM 54, 50, no, 548 e 6. La produzione di bilancio è qui. Poi sto prendendo un Intec, che bello, è nuovo, 340S, 34 canali modificato, e ho letto 6 watt di uscita. Uno mi ha detto che erano 15, ma non si può prendere un cucchio, anche il watt di 140. Comunque dopo nuovo, con un microfono amplificato, poi da un po' di interessa, è nuovo nuovo. No, per il momento già va bene questo, poi ne ho anche un altro da... Ah, questo qui lo voglio mettere in casa, per dire, e poi ne ho un altro piccolino da macchina, quello che c'è anche il telecomando, quello vero, Intec piccolino, come si chiama così qui? Intec piccolino, ma a LED o a smicchia? A LED, non è a smicchia, quello piccolino che si è lasciato in sardina. Voglio andare con la macchina, basta metterti un microfono buono. Ma guarda, la LED, mamma mia, fa caldare. Ehi, vabbè, ma in macchina tanto di un ingegnere si era fuggiuta, quando si mette nel radio, che c'è 5 watt, si andava. Questa qua, vedi, già fa di luce, se me lo metto qua avanti, ecco perché c'è la foglia pesi lì, non lo vedo. Perché l'ho poche parole, la rilevazione la sto prendendo dalla doppia batteria, perché io ho un impianto in macchina, non indifferente, quando fa via te lo faccio vedere. Mi sono collegato dietro, capito, quindi adesso mi devo fare la più lunga, attacco, mettiamo il sensibile, aspettando quando voglio, quando metto l'avanti, ci giro a porto di, insomma. Scusa, la sindistica, ti colleghi, che allora voglio una cosa della sindistica, vieni qua, lo colleghiamo, te lo attacchi lì direttamente. Vedi, perché c'ho il figlio attaccati alla mattina di dietro, non stavo cercando la casa, perché mi ricordavo di averlo, con i miei cugini, e invece non si, cioè non sono stato facile, ma domani vado in casa, se mi faccio la fuggiare, ma lo compro uno. Sì, che cosa? E là le cose per la tinicina. Quando magari la tinicina arriva nel mezzo, non fa arrivare a collegamento, figli che non si vede, ma non si usa. Se vuoi trovare lui ce li ho, però qualcuno in più non è problema. Vieni qua, lo saldiamo, non c'è problema. Conti voi, se ti conviene magari se non per mezzo alle balle, portati il filo alla batteria direttamente, oppure collegati lì al, come si chiama, ai fusibili. Ehi, comunque non si può dire che le sta mancando corrente, sai che c'ho, queste parole io ho due batterie, una davanti e una dietro in cofano, capito? Una è batteria per pressione sonora, ed è al gel, capito? Non c'ha liquidi dentro, è al gel, costa 300 euro, cioè non so, c'è un picco massimo di punta, non so di quanti ampere ora, è la paura, la vado a caricare questa, devo modulare ore. Vuoi caricarla dopo? No, si ricarica l'alternatore, se non la carica è parallelo a quella di davanti, capito? Io dico, io adesso ho 110 ampere, la ne ho a caricare. Non da di male, oh yeah. Basta mettere che c'è un impianto, ho sentito pure passare con un po' la valetta. Non mi dire che vuoi careggiare con cosa, no? Con che cazzo si chiama, la lavaggista, no? Ma, chi è il ragazzino che è l'applicatore che ho io? Prima lui, l'Alpine V12, classe A, 1500 watt, due canali, e al 2 ohm sale fino a 900 watt RMS. Si è fatto brutto, ma perché le gare stai facendo? E qualcuno l'ho fatta, non mi sono rotto i coglioni, ma l'ho fatto tutto, non ho più il tempo da finire, e poi troppo denaro, devi stare a passo, non lascia perdere. Come, che se lo c'hai? Alpine, classe A, quello col telecomandino, il 9833RP, il filiale, cioè 512 km di colore, 64x4. Allora, è nulla, Allora, ci vediamo che te lo faccio vedere, l'impiantino, è di luce, regolare, condensatore elettronico, che sarebbe... Immaginate i condensatori, quelli piccoli che c'entro paracchi, no? Immaginate uno grande 40-50 centimetri con uno strumento digitale davanti, accumula un micro sì, nelle due polarità. Quando è carico, vedere le cose più facili. Io come se ne è costurata. Tipo in mezzo, beh, certo. Passo a casa, sai, non è problema. E poi vogliamo vedere l'antenna, io sono bravo, tu sì. E io, ho fatto poco fa, vicino. Sono di tante, ma non c'è molto palo. No, sono 3,70, non lo posso da lì. Perché ho fatto lavorato lì. E devo mettere le staffe che me le ha costruite Adriano. Sotto.